Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Quanto conta il look per una rockstar? E quanto conta per una rockstar donna? È l'eterno dibattito sull'abito che fa o non fa il monaco. Fatto sta che così almeno sembra insegnarci la storia della musica. Essere associati a un aspetto originale di certo aiuta a essere ricordati. Vale anche per i migliori, quelli a cui basterebbe il talento. La povera Amy Winehouse, per esempio, voce unica e indimenticabile, amava non passare inosservata. La sua capigliatura cotonata rileggeva in chiave punk le chiome delle icone di stile degli anni 60. La divina Jacqueline Kennedy prima di tutte. I suoi occhi marcati profondamente e allungati all'eccesso con dosi massicce di kajal sono diventati un make-up da imitare. Il suo abbigliamento sciatto rappresentava il suo malessere e contemporaneamente una ribellione nei confronti di una società nella quale non si è mai sentita a suo agio. Vestitini striminziti, maglioni informi portati senza nient'altro, canotte, minigonne cortissime, shorts, leggings e reggiseni ostentati. Ballerine da danza o tacchi vertiginosi, nessuna mezza misura. E poi ancora abiti rockabilly, t-shirt, polo. Un mix che è tutto suo, un mix che rende Amy Winehouse un simbolo. Le ragazze del rock hanno spesso un'immagine che le contraddistingue. L'irlandese Sinead O'Connor ha affiancato alle sue opinioni controverse un taglio di capelli radicale, chioma rasata a zero. Janis Joplin negli anni 70 aveva fatto di gonnelloni, gilet e lunghe collane uno stile da copiare in pieno mood Figli dei Fiori. La nostrana Gianna Nannini indossa spesso giacca di pelle, jeans used e così via. Lady Gaga, la regina del trasformismo, si è invece ispirata per uno dei suoi travestimenti alla rocker androgina per eccellenza. Beh, ispirata. Qualcuno ha detto che ha proprio copiato. È successo questo. Per lanciare il singolo You and I, si è inventata un alter ego maschile, che si è presentato sul palco dei Video Music Award per una performance che, distinto tutti, hanno confrontato con l'esibizione ai Grammy Award del 1984 della sua musa, Annie Lennox, in versione Elvis. Questo per dire che ogni trasformazione, ogni cambiamento, ha bisogno di un riferimento, di un mito al quale ispirarsi. Ed è proprio lei, Annie Lennox, la protagonista della puntata di oggi. Lei che, interpellata dai media sulla questione Gaga, ha risposto con l'eleganza di sempre. Gaga crea arte incredibile, è eccezionale. Vabbè, sì, il parallelo era ovvio, ma il fatto che stesse copiando me o qualcun altro non fa alcuna differenza. Comunque, tutte le donne hanno indossato abiti maschili per centinaia di anni. Sai, è una cosa potente quando una donna indossa qualcosa di meno femminile. È come dire, devi guardarmi in un modo diverso. Non sono solo un oggetto sessuale per te. Capelli cortissimi, look androgino e voce potente. Questa è Annie Lennox, che i giornalisti hanno presto incominciato a chiamare la Grace Jones bianca. Appassionata sostenitrice di cause umanitarie, la signora del rock ha fatto da sempre della musica una sua ragione di vita, diventando per la rivista Rolling Stones uno dei 100 cantanti più grandi di tutti i tempi. Il suo successo commerciale ancora oggi va a braccetto con l'apprezzamento della critica. Gli 80 milioni di dischi venduti in tutto il mondo da inizio carriera parlano chiaro. Non è strano dunque che la regina abbia pensato anche a lei, nata e cresciuta in Scozia, per il concerto evento del 4 giugno 2012 in occasione del Giubileo di Diamante. Dietro al palco c'è un camerino dove Annie scalda la voce. Mette la testa fuori, dà un'occhiata a destra e a sinistra. Buckingham Palace è lì, imponente, pronto a giudicare se le performance sono all'altezza. Il cielo è plumbeo, tipicamente inglese. E che spunti davvero il sole, come dicono le previsioni, ci credono in pochi. La gente è accalcata dalla mattina. Qualcuno mangia un panino, qualcuno si è addormentato. Ma guai a perdere il posto. Dopo tanti anni di concerti è ancora emozionata l'idea di cantare di fronte a così tante persone. Tutti i concerti che ho fatto li ho affrontati con il cuore in gola prima di iniziare. Dio, che agitazione. La gente si aspetta di sentire le canzoni che conosce, di cantarle con me. Ma per me è importante dargli sempre qualcosa di nuovo, non so. Trovare una nuova inflessione della voce. Approfittando di averla intravista mentre fa due passi fuori dal camerino, un cronista chiede alla Lennox se sappia quali sono i gusti musicali della regina. Lei scoppia a ridere. Lo chiedono a tutti, in effetti, e nessuno lo sa, nemmeno il giornalista Antonio Caprarica, che di inglesi se ne intende. Un vero mistero. Pare addirittura che la regina in altre occasioni si sia presentata con i tappi nelle orecchie. 60 anni di regno significano che la regina Elisabetta è stata sul palcoscenico sin da quando la maggior parte di noi è venuta al mondo, insomma, quindi non è solo un punto di orientamento stabile per il Regno Unito, ma direi anche per il globo nella sua più vasta accezione. Ecco perché, bene o male, questo evento interno inglese viene seguito con una grande attenzione un po' in giro dappertutto. 60 anni significano che la regina Elisabetta è la seconda sovrana nella storia inglese in un millennio di storia della monarchia a toccare questo traguardo dopo Vittoria, dopo la trisavola Vittoria. Quando Annie Lennox sale sul palco, è un trionfo. Canta There Must Be an Angel. E perfino la regina, normalmente impassibile, si lascia andare a un lieve sorriso. Si dice che gli scozzesi abbiano un temperamento, un carattere e un approccio alla vita completamente diverso dagli inglesi. Al di là degli stereotipi, che la durezza del clima e la natura selvaggia forgino le persone ha un fondo di verità. La storia di Annie Lennox comincia ad Aberdeen, la terza città più popolosa della regione, famosa per le cave con le inclusioni di mica, che le hanno regalato il soprannome di Città d'Argento. I palazzi di granito grigio che brillano non appena si affaccia un sole timido donano al suo centro un fascino velato di malinconia. E poi c'è il mare, con i suoi piccoli ristoranti di fish and chips e le casette di legno dei pescatori, basse, colorate di colori diversi, perché ogni pescatore dalla sua barca potesse facilmente riconoscere la sua. Quando arriva la tempesta, i traghetti verso le isole Shetland e le isole Orcadi non partono. I turisti, ansiosi di avvistare delfini e balene, rimandano al giorno dopo e si consolano con una birra che scalda anima e corpo. Sono cresciuta in una famiglia molto unita, c'era sempre calore in casa. Stavamo in un bilocale, niente di pretenzioso. Si trovava al numero 40 di Hatchin Street, proprio di fronte alla vecchia fabbrica di tessuti. Alla fine della strada, invece, lavoravano la plastica. Ma la cosa più orribile era l'odore della grande macelleria. Anche se ci stai immerso tutti i giorni, non ti ci abitui mai. Il signor Lennox lavora da sempre nei cantieri navali. Sua moglie, dopo un breve passato da cuoca, ha scelto di fare la casalinga. Anne Lynn Angevine Griselda Lennox, presto per tutti semplicemente Annie, viene alla luce la notte di Natale del 54, in un'atmosfera unica. Tutti hanno appeso le luci fuori dalle finestre. Gli alberi addobbati sono ovunque. Una vita che comincia bene, un'infanzia felice. La futura rockstar si rivela presto una bambina prodigio. Non fa alcuna fatica ad essere ammessa alla scuola più prestigiosa di Aberdeen, supportata da un quoziente intellettivo decisamente più alto della media. Le piace, la mattina, indossare la divisa e sentirsi parte di un gruppo di cui va fiera. Una gonna a pieghe, i guanti neri o marroni, le scarpe dello stesso colore. Ancora oggi me lo ricordo benissimo, l'avrò detto mille volte. Buongiorno, Miss Sadler. Grazie, arrivederci, Miss Sadler. È stata una buona educazione perché abbiamo imparato la disciplina. La sua insegnante preferita, però, di quelle poco convenzionali che prima si odiano e più tardi si amano, è la signora Murray, maestra di pianoforte. Guarda, mi faceva spesso piangere, ma col tempo ho capito che lo stava facendo per me, per aiutarmi ad affrontare il mondo a testa alta. Vedi, ero una bambina così timida. Grazie a lei ho incominciato ad aprirmi. Ecco perché mi piacevano da morire quelle giornate insieme alla signora Murray, perché oltre a imparare a suonare, sono cresciuta. Le prime esibizioni di una giovane timida Annie Lennox avvengono sui palchi scricchiolanti delle feste di paese sparse in giro per la Scozia. È la signora Murray, la sua insegnante di piano, che se la porta dietro con il permesso dei genitori. Fa parte dei suoi metodi educativi poco ortodossi, ma evidentemente efficaci, visto come è andata a finire. Una terapia shock. Vai sul palco e suona davanti a tutti. Un giorno Annie è a scuola e si imbatte in un oggetto che si rivelerà infinitamente prezioso, un vecchio flauto. Lo trova in un armadio che ha aperto per cercare dei fogli. È profondo, non arriva fino in fondo, quindi va un po' a tentoni, infila il braccio destro e tocca prima uno scaffale, poi l'altro. Si abbassa per ispezionare l'ultimo, quello più vicino a terra, ed è proprio da lì che tira fuori il flauto. Ci soffia sopra per togliere la polvere di anni. Non basta, ma almeno qualcosa si intravede. È malmesso, tenuto insieme da due elastici, ma pare essere ancora funzionante. Almeno questo è quello che dice la signora Murray, che la spinge ad accantonare per un attimo il piano per dedicarsi allo studio dei fiati. Ogni tanto ho bisogno di fermarmi e di pensare al mio passato, avere una specie, non so come dire, una specie di retrospettiva. Così posso dire quali sono le cose buone che ho fatto, cosa ho imparato. E questo per me è essenziale. Con il flauto Annie è proprio brava. Così brava che sono i suoi genitori a proporle, prima ancora che lei glielo chieda, di provare a essere ammessa alla Royal Academy of Music di Londra. Lei li abbraccia commossa. Non le hanno mai fatto mancare nulla, pur non essendo ricchi. E ancora una volta sono disposti a fare dei sacrifici per la sua felicità. Il periodo di preparazione per essere ammessa alla Royal Academy of Music di Londra, Annie non lo vive proprio bene. Ha continuamente degli incubi, attacchi di panico, paura di non farcela. A tutto questo si aggiunge il fatto che il flauto non le piace più. È ancora sicura di voler tentare la carriera da musicista, ma vuole cambiare strumento. Allora, io sono tuttora convinta che il flauto funzioni bene per la mia musica, ma io ho sempre lavorato bene con il supporto di una band. Non volevo legarmi troppo, ecco, volevo approfondire la musica a tutto tondo, volevo che Londra mi desse questa opportunità. Annie Lennox arriva a Londra all'inizio degli anni 70. Le avevano detto che in questi giorni ci sarebbe stato il tradizionale carnevale multietnico a Notting Hill, il quartiere in cui ha trovato un piccolo appartamento, ma mai si sarebbe immaginata un tale caos. La parata accoglie migliaia di persone, migliaia di colori e decine di musiche che si susseguono ininterrottamente. Lei in città c'è stata qualche volta, ma come tutti i ragazzi di provincia non la conosce per niente. In mano, per aiutarsi, ha una cartina e il suo sguardo va a destra e a sinistra in cerca di riferimenti. Mi ricordo che un giorno stavo tornando dal lavoro e un gruppo di manifestanti ha cominciato a lanciare sassi verso gli agenti. Ho fatto una corsa e mi sono chiusa in casa. Avevo paura. Io capivo le loro ragioni, ma mi faceva veramente paura la rabbia che avevano tutti. La Londra degli anni 70 è un contenitore di contraddizioni, violenza e arte, libertà e ribellione. Annie si ambienta in fretta e mentre continua a seguire i corsi di musica, incomincia a scrivere canzoni. Le mette tutte in un cassetto all'inizio. Per insicurezza, pudore e inesperienza non le fa sentire a nessuno. Per sbarcare il lunario fa di tutto. Commessa in un negozio di abbigliamento, barista in un locale dalla clientela dubbia, cameriera in un ristorante. Una sera un signore che cena da solo ordina e poi si mette a chiacchierare con lei. Il destino vuole che sia un produttore. Incredibile a dirsi, ma il giorno dopo la Lennox sta facendo la sua prima importante audizione. A raccontarlo sembra incredibile, ma io credo nel destino. Ed è stato proprio il destino a mandare quell'uomo al mio ristorante. Pazzesco, eh? Non credevo ai miei occhi. Quando sono uscita dal suo ufficio, avevo in mano un contratto. Pochi soldi, niente di importante, ma ero così felice. La felicità di un contratto lascia presto spazio al dubbio di essere all'altezza. Succede spesso ad Annie Lennox, anche oggi che è una star internazionale, figuriamoci a inizio carriera. E così bussa alla porta di un suo amico, si toglie le scarpe per mettersi a suo agio e seduta sul divano con in mano una birra inizia a sfogarsi. L'amico, con la praticità di chi una situazione del genere l'ha già affrontata, prende il telefono e fa un numero. Dall'altra parte risponde il primo magnifico incontro del destino di Annie Lennox. Dave Stewart. Negli anni 70 fare musica significava solo una cosa: sperimentare. Tutto era all'insegna della rottura. La tradizione andava bene solo se mescolata con qualcos'altro. E io pensavo che non sarei riuscita ad andare oltre come musicista. E invece poi è arrivata lei. Ecco, a dirla tutta, Dave è tanto un magnifico destino per Annie quanto Annie lo è per Dave. Nato a Sunderland, Inghilterra nord-orientale, contea metropolitana di Tyne and Wear nel 52, e promettente giocatore di calcio fino all'interruzione di carriera per via di una brutta caduta, Stewart scopre presto la chitarra e se ne innamora perdutamente. Negli anni 70 diventa membro dei Long Dancer, che riescono ad avere una discreta fama, prima soltanto nella zona e poi in tutta Inghilterra. Il primo appuntamento di Dave Stewart ed Annie Lennox, organizzato perché lui le dia consigli sulla musica e sulla gestione della sua carriera, è in un bar di Londra. Lui, che da musicista puro vive più o meno da nomade, ha fatto della capitale la sua base. Lei si è trasferita in città per studiare. All'inizio parlano di tournée e di clausole contrattuali, ma dura pochissimo. Entrambi si accorgono che vogliono conoscersi, raccontare le loro storie, vedere se dietro un'attrazione immediata può nascondersi qualcosa di più profondo. È inutile negarlo, Dave mi ha rapita. Con quella sua aria d'artista, il fascino di chi vive ogni giorno come se fosse l'ultimo. E poi non era per niente ombroso, anzi, era molto solare, lo è sempre stato. Tra i due, io ero quella più dark. I magnifici destini. I magnifici destini. Ai magnifici destini stiamo raccontando la storia della diva della musica che ha conquistato il mondo con la sua voce e il suo fascino androgino, Annie Lennox. Siamo all'inizio degli anni 70 e ha appena firmato il suo primo contratto discografico. A darle consigli su come affrontare ogni aspetto della sua carriera è il chitarrista dei Long Dancer, Dave Stewart. Ti dico una cosa, non riuscivo ad ammetterlo, ma ho sempre avuto un po' di paura a spiccare il volo da sola. Il fatto di avere Dave vicino mi ha fatto sentire protetta, sicura. Prima che un grande musicista, è un grande uomo. Ha saputo darmi la forza di provarci veramente. 1980, Londra. Annie Lennox e Dave Stewart sono una coppia sul palco e lo sono stati nella vita. Lui, che ha conosciuto il suo talento, le ha proposto di unirsi in un gruppo, gli Eurythmics. Un tocco di pop e una strizzata d'occhio alle sonorità elettroniche. Loro due soltanto a lavorare sia alle canzoni che agli arrangiamenti. Il primo album esce l'anno dopo ed è il via a una lunga serie di collaborazioni. A Colonia con il leggendario discografico e musicista Connie Plank, con i Can, avanguardia tedesca, con il batterista Clem Burke dei Blondie. Il sapore che si ottiene mescolando tutti gli elementi è psichedelico, elettropop, una cosa nuova, originalissima, forse troppo. Nemmeno due singoli lanciati in radio servono a fare da traino. Frustrati dalle soddisfazioni che non arrivano, Annie e Dave non riescono neanche a tirarsi su a vicenda. Seduti sul prato di uno dei tanti parchi cittadini, cercano una soluzione mentre strappano nervosamente di tanto in tanto un filo d'erba. Niente, nessuna idea, nessuno stimolo per andare avanti. Intanto il sole sta tramontando. Dave si alza e allunga la mano verso Annie, che allunga la sua e si tira su da terra. Lo fa sempre, ormai è diventato il loro piccolo rituale. Iniziano a camminare. Il solito fast food, la vecchia sarta che lavora nonostante l'invasione dei grandi negozi. E poi una fabbrica di cornici in un tipico edificio londinese. Dave si ricorda che qualcuno gliene ha già parlato. Sopra deve esserci un locale dismesso. Chiedono permesso al proprietario e salgono a vedere. I muri cadono a pezzi. Il pavimento è da rifare, ma capiscono subito che è il posto che fa per loro. Si fanno fare un piccolo prestito. Lo comprano, lo rimettono in sesto e ne ricavano un piccolo studio da 8 tracce. Quando guardo indietro alla mia vita, a quello che sono stata, posso distinguere 3 capitoli. Il protagonista del primo capitolo è sicuramente Dave e i nostri Eurythmics. Una parte di me fondamentale prima della carriera da solista. E se mi guardo indietro, mi hanno dato moltissimo. Dave Stewart e Annie Lennox vivono il loro studio di registrazione come fosse una casa. Ci lavorano, ci dormono, ci mangiano. Sempre più presi dall'elettronica, danno vita a collaborazioni importanti, come quella con Reinhard Falconer e Adam Williams. Ma è ancora tutto inutile. I 3 singoli pubblicati sotto l'etichetta RCA nel 1982 fanno flop. E dire che ci stanno mettendo anima e corpo, che passano le nottate su un pezzo, su un arrangiamento, al punto che sono esausti, non riescono più a occuparsi di tutto, litigano tra di loro. Annie soffre di crisi nervose. Dave viene ricoverato per un collasso polmonare. Non ce la facevamo più ad andare avanti. Eravamo stravolti. Ci sembrava di fare tutto per niente. Sai quante volte abbiamo pensato di mollare? Annie diceva sempre che almeno quando faceva la cameriera la paga era garantita. Beh, come darle torto? Al culmine dell'ennesima litigata in studio, Annie scoppia a piangere. Non è da lei lasciarsi andare a questi sfoghi emotivi, è una che tiene tutto dentro. Ma stavolta davvero non ce la fa più. Dave, il suo punto di riferimento, non sa come aiutarla, anche lui è distrutto, tira un pugno alla porta per il nervoso, deve mettersi una benda per il male che gli fa. Distratto, mette su una traccia senza fare troppa attenzione e la musica, per chiamarla così, parte all'incontrario. Il suono dei bassi sintetizzati è pazzesco. Così potente che Stewart, su quella base, costruisce un'intera sequenza. È così che nasce Sweet Dreams Are Made of This. In un attimo, gli Eurythmics esplodono. Sweet Dreams è il trampolino di lancio degli Eurythmics. Primo posto in classifica, un successo via l'altro, 7 album in 7 anni, 75 milioni di album venduti e tour infiniti in giro per il mondo. Annie Lennox compare sulla copertina di Rolling Stones, diventando l'icona androgina per eccellenza che i media di tutto il mondo iniziano a chiamare la Grace Jones bianca. Sai, non me lo spiego ancora. Tutto quel provare. E poi è scoppiato il fenomeno Eurythmics, praticamente per caso. Beh, naturalmente Dave è stato bravissimo a riconoscere che quel giro di bassi avrebbe avuto fortuna. Però, che assurdo, no? Le magie durano poco, o quanto basta. Fatto sta che dopo l'amore, tra Annie Lennox e Dave Stewart, finisce anche il rapporto professionale. Entrambi sentono l'esigenza di buttarsi in progetti individuali, ma è Annie soprattutto a voler tentare la carriera da solista. Quella carriera che non avrebbe avuto il coraggio di iniziare senza essere spronata da Dave, senza gli Eurythmics. Ma adesso è una donna nuova, sicura di sé, in grado di lasciare il nido e spiccare il volo. Professionale integerrima innanzitutto con se stessa. Da quando ha deciso di incidere un album da solista, Annie Lennox prova ogni giorno con la costanza di un neofita. Vuole che tutto sia perfetto. Sa benissimo che la critica che fino ad ora ha avuto per lei grandi elogi, da un momento all'altro potrebbe voltarsi dall'altra parte e decretare il suo insuccesso. Non c'è più Dave con lei. Si sono detti addio, forse arrivederci, e ognuno per la sua strada. Ogni tanto le manca, ma dà la colpa all'abitudine. Qualche volta lo chiama, ben consapevole di quanto sia stato importante ogni suo consiglio, ma poi di colpo le prende la paura di essere ancora troppo legata a lui. Ero in un vicolo cieco, sentivo il bisogno di confrontarmi con qualcuno, ma quel qualcuno non poteva essere Dave. Sì, insomma, per tutto quello che avevamo passato, perché volevo dare alla mia voce un'impronta nuova. E allora ho capito che mi serviva uno stimolo nuovo. Il secondo magnifico incontro del destino di Annie Lennox si chiama Stephen Lipson. Musicista e produttore, è uno dei pochi fortunati che riescono a entrare nelle grazie della cantante. Non per superbia, al contrario, per via di quella timidezza velata di sfiducia che la porta a non lasciarsi andare con nessuno. Come a dire, se qualcuno entra nella mia vita e nella mia musica, è perché vale. Quando mi è suonato il telefono e dall'altra parte c'era Annie Lennox, per poco non svenivo sul divano. Non che non abbia mai conosciuto gente famosa, non ero un fan acerbo, per carità, però lei è Annie Lennox. Non riuscivo a crederci. Intanto che lei parlava, io continuavo a ripetermi: ehi, stai parlando con Annie Lennox. Stephen Lipson, per tutti Steve, è un artista che ha fatto della musica la sua vita. Musicista, dicevamo, ma anche paroliere e produttore, ha lavorato fin dalla metà degli anni 70 con alcune grandi star, del cui successo è in buona parte responsabile. Frankie Goes to Hollywood, Cher, Grace Jones, Pet Shop Boys, Simple Minds. Ha davvero un curriculum che possono vantare in pochi. Non è solo per questo che Annie Lennox decide di affidarsi a lui, per la sua esperienza, certo, ma anche per il suo carattere. In sala d'incisione lui è sempre pacato. Quando lei sbaglia, poco a dire la verità, le offre un caffè per concederle una pausa. Quando è stanca, le consiglia di interrompere e ricominciare il giorno dopo. Insomma, tutto un altro ritmo rispetto agli inizi degli Eurythmics. Proprio quello che serve ad Annie per prendere fiducia. E la pazienza dà i suoi frutti. Nel 1992 esce l'album Diva, che ha immediatamente enorme successo di pubblico e critica. Lipson produttore, Anton Corbijn il fotografo autore della copertina. Il disco è proclamato migliore album britannico ai Brit Awards, mentre il singolo Why entra nella storia. Francis Ford Coppola chiama la Lennox per la colonna sonora del suo Dracula di Bram Stoker. Se la vita di Annie Lennox è fatta di capitoli, questo è senza dubbio un magnifico secondo. I magnifici destini. Sono due i magnifici incontri del destino che hanno segnato la vita e la carriera di Annie Lennox. Quello con Dave Stewart, grande amore e cofondatore degli Eurythmics, e quello con Steve Lipson, il produttore con cui la diva ha dato il via alla sua grande carriera solista. Due grandi uomini che hanno in comune una cosa. Sono molto diversi, sì, Dave e Steve sono diversissimi. Però io mi sono sempre fidata di entrambi. Sapevano, ognuno a modo suo, come farmi sentire sicura. Non sarei diventata quella che sono senza di loro, questo è sicuro. 1995. Dopo un indimenticabile duetto con David Bowie sulle note di Under Pressure per il tributo a Freddie Mercury, le apparizioni di Annie Lennox si fanno sempre più rare. Riservata lo è da quando è piccola. Lo show business le interessa nella misura in cui le consente di far sentire la sua musica. Non sogna il successo fine a se stesso. Esce il secondo album da solista, Medusa, prodotto ancora da Steve Lipson. Ottiene ottimi risultati di vendita e le fa vincere diversi premi. A trainarlo, la splendida No More I Love Yous. Dave Stewart è più di un amico per Annie Lennox, più di una parentesi della sua vita. Le ha insegnato moltissimo, insieme ne hanno passate tante. E forse vale la pena riavvicinarsi. Se lo dicono un giorno, quando si incontrano dietro le quinte di uno show di beneficenza in cui entrambi sono stati chiamati a cantare. Lei è seduta sulla scaletta che conduce al palco, mani a penzoloni tra le ginocchia, lui in piedi davanti a lei. Chiacchierano del più e del meno. Ogni tanto lui butta l'occhio al foglio con scritto l'ordine delle entrate. Arriva un tecnico e dice ad Annie che è arrivato il momento di microfonarla. Dave, distinto, allunga il suo braccio verso di lei per aiutarla ad alzarsi. Non lo faceva da anni, ma non l'ha mai dimenticato. Neanche lei, sembra dire il suo sorriso. L'amore è ormai finito da tempo, ma per il piacere di lavorare ancora insieme, una nuova porta si sta aprendo. Quando sono salita a cantare mi sentivo molto leggera, felice. Sapevo che con Dave avremmo fatto ancora qualcosa. Ero veramente contenta. E così, senza che Annie abbandoni la sua carriera da solista, alla fine degli anni 90 gli Eurythmics tornano insieme, almeno per l'album Peace. Febbraio 2004. Al Kodak Theater di Los Angeles sta per cominciare la 76esima cerimonia degli Oscar. Dietro le quinte si sta preparando l'attore comico Billy Crystal, veterano della conduzione, a cui anche quest'anno è stato affidato il ruolo. In platea tutte le star sono già sedute. C'è chi commenta l'abito di un'amica nemica, sorridendole da lontano. C'è chi scambia commenti al vetriolo col vicino di posto. Qualcuno fa le prime ipotesi sui vincitori. Il film Il ritorno del re, l'ultimo della trilogia del Signore degli Anelli, firmata Peter Jackson, è tra i più quotati, avendo ricevuto ben 11 nomination. Restate fermi! Restate fermi! Figli di Gondor, di Rohan, fratelli miei! Vedo nei vostri occhi la stessa paura che potrebbe afferrare il mio cuore. Ci sarà un giorno in cui il coraggio degli uomini cederà, in cui abbandoneremo gli amici e spezzeremo ogni legame di fratellanza. Ma non è questo il giorno! Annie Lennox è in platea, emozionata ed elegantissima nel suo lungo abito bianco che lascia le spalle scoperte proprio per questo film. Ha cantato il brano della colonna sonora dal titolo Into the West, in nomination come migliore canzone. A comporla è stato il suo terzo magnifico incontro del destino, Howard Shore. Quando ho scritto Into the West avevo già in testa la voce di Annie. L'ho pensata proprio per lei. Per fortuna, quando le ho chiesto di cantarla, ha detto di sì. Howard Shore non è un novellino delle colonne sonore. Ben prima delle musiche della trilogia del Signore degli Anelli, è stato collaboratore fisso di David Cronenberg e ha scritto melodie capolavoro entrate nella storia. Il Silenzio degli Innocenti, Philadelphia, Ed Wood, ma anche Seven, Gangs of New York, The Aviator. Insomma, alle cerimonie degli Oscar è piuttosto abituato. Eppure stavolta è speciale. Annie Lennox ha davvero dato vita con la sua voce a un sogno che lui aveva nella testa. Our third nominated song is from a film that holds a very special place in my heart. Peter Jackson's The Lord of the Rings, The Return of the King. The song Into the West was written by Oscar nominees Fran Walsh, Howard Shore, and Annie Lennox. Here to take us back to a magical and wondrous place, please welcome Annie Lennox. Una visibilmente emozionata Liv Tyler annuncia così la performance di Annie Lennox, che lascia il pubblico senza fiato. Affascinante, da brivido, potente, indimenticabile. Gli aggettivi si sprecano e sembrano non essere mai abbastanza. La piccola bambina timida cresciuta col vento della Scozia ha sempre cercato in uomini speciali una figura che le desse coraggio di credere in se stessa. Adesso, al posto di un uomo in carne ed ossa, c'è una statuetta. Si chiama Oscar. Lay down your sweet and weary head. Night is falling. You've come to Jenny's end. Sleep now. Dream of the ones who came before.